blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi mi era venuta in mente questa idea di fare un condizionatore, fai da te, e di realizzarlo semplicemente con gli oggetti di uso giornaliero. La base di tutto, l'oggetto principale sarà questo pacco di patatine. Dovremo inserire una base di supporto. Possiamo usare questi semplici bastoncini per degli spiedini. Ho messo 7 palline di ghiaccio. Come vedete lo metterò all'interno e non cascherà grazie alla base che abbiamo creato. Una ventola, io ho preso quella di un PC, ma potrete tranquillamente... Questa è la maniera per costruirsi un condizionatore casalingo. Di necessità si fa virtù. L'artigianato domestico si improvvisa tecnologico per andare contro quella che è l'ondata di caldo. Vedete ancora parlare del caldo, sì, chiaro, l'estate sia caldo, è normale, ma c'è una tale amplificazione mediatica attorno al caldo, che in effetti sì, non è proprio freschino, perlomeno a Roma si boccheggia abbastanza, che in realtà diventa un problema, diventa quasi una calamità, diventa qualcosa che mai si era affrontato prima, e quindi iniziano i rimedi. Noi facemmo già una trasmissione tempo fa sui condizionatori, ma non tutti hanno i condizionatori, non tutti hanno questa fortuna, non tutti hanno lo scettro del dominio familiare per tenere un condizionatore acceso contro il parere avverso del resto della famiglia. Quindi cosa si fa contro il caldo? Oggi scopro, perché leggo un pezzo della collega della Stampa Flavia Amabile, che c'è un numero gratuito del Ministero della Salute a cui si può telefonare per chiedere consigli, aiuto, domande sul tempo. Il numero è il 1500. La collega Flavia Amabile è stata a sentire cosa dicono a questo numero. C'è di tutto, la gente è veramente preoccupata, la gente veramente su questo ha dei problemi. Beh, questa mattina voglio sapere come voi affrontate il caldo, banalmente, quali sono i sistemi, al di là di quelli canonici, quelli classici, per evitare di rimanere secchi con il caldo. Ma qualcuno troverà delle derive particolari per attraversare le città, perché è inutile che i telegiornali dicano uscite soltanto nelle ore di fresco. Sì, vabbè, ma chi non lavora, chi non deve andare a fare la spesa, chi non ha nulla da fare, può anche star chiuso dentro casa, ammesso che dentro casa sia meno caldo che fuori. Ci sono case che sembrano dei forni crematori, quindi è impossibile starci dentro. Beh, voi come fate? Giocate sul sfessuraggio e il contrasto fra le persiane, giocate tenendo aperte una porta e l'altra, facendo fare quel venticello dentro casa, oppure andate con ventagli, andate con ventilatori, state tutto il giorno con i piedi dentro l'acqua, vi fate le docce continue, avete dei sistemi tristi, squallidi, ma ahimè quotidianamente necessari per sopravvivere a grande caldo. 800 24 0024. Ciao ragazzi, oggi in specifica vi farò vedere come costruire un condizionatore fai da te con oggetti di, diciamo, un po' riciclabili. Dobbiamo prendere due cannucce e tagliarle in 4 pezzettini, preferibilmente tutti uguali. Un elastico, una ventola da PC, questa qua è molto vecchia, però se voi usate quelle nuove dei PC molto nuovi, farà ancora più vento. E un sacco frigo, che sarebbe quelle piccole bustine dove ci mettiamo tutte le cose avanzate per mettere in frigo carne, queste cose. Questo è un altro ragazzino che si improvvisa scienziato su YouTube e prova anche lui in qualche maniera a suggerire come costruire un apparecchio refrigerante casalingo. Avete altre idee, avete altri suggerimenti? Perché qualcuno su questo si sta attrezzando, e per sapere come, dove, quando, chi possono essere i nostri maestri di attrezzatura domestica per sopravvivere al caldo se non gli Umarels, e infatti per questo abbiamo Danilo Masotti. Danilo Masotti, buongiorno. Buongiorno. Il Carlino ti ha dedicato una pagina come esperto nei rimedi per il caldo, quindi anche Bologna l'adotta, la città dell'immaginifico Umberto Eco. Deve ricorrere all'Umarel per sapere come uscire dal caldo? Eh sì, perché quando si parla di caldo gli Umarels sono quelli che ne sanno di più, e ovviamente mi chiamano perché, ad esempio, oggi a Bologna, come in gran parte dell'Italia, la temperatura prevista di oggi sono 39 gradi, e anche domani 39 gradi. Questa notizia potrebbe già bastare per fare caldo, invece no, c'è un occhiello nell'articolo dove si dice 39 gradi oggi, a tanto si arriverà nel pomeriggio, ma però il valore percepito sarà fino a 46. Ecco, quindi adesso c'è un dato molto importante che interessa l'Umarel, è appunto la temperatura percepita. Quindi la temperatura percepita, è difficile a capirlo, non è quella che in realtà segna il barometro, ma è quella che si percepisce. Cosa significa non si sa. Ecco, ma... così, è comunque il trionfo dell'individualismo, ecco. A questo punto, quali sono i sistemi pratici che mettono in atto gli Umarel per sopravvivere al caldo, tra quelli classici che già conosciamo? Vediamo di fare una mappatura della giornata tipica dell'Umarel, perché tutti possano prendere esempio in queste giornate che c'ha un caldo ipotetico e un caldo reale, contro i quali deve comunque combattere, perché lui ha problemi di pressione, certo, perché lui non può certo esporsi al caldo. È la prima categoria protetta, anche i telegiornali lo dicono, non fate uscire di casa i bambini e gli anziani. Allora, l'Umarel, il vero Umarel, che cosa fa? Si sveglia prestissimo, quindi svegliandosi prestissimo è più fresco. Sfrutta le ore più fresche, ecco, sì. Sfrutta le ore più fresche, cosa che invece altri magari si svegliano già tipo alle 7, alle 8, insomma è già un po' più caldo, se può si sveglia anche alle 5. E l'Umarel deve uscire, ovviamente deve andare a fare delle file, e quindi è importante che lui sia il primo della fila, non importa quale, quindi troverete tanti Umarel i primi della fila davanti ai centri commerciali che aspettano che aprono, il primo che fa la fila dal dottore, il primo della fila davanti alla farmacia, quindi questi saranno orari di massima affluenza. Intanto ti dico, perché così poi li aggiungi al tuo compendio, arrivano i primi consigli via SMS. Penso che questo sia una facezia, il bidet con i cubetti di ghiaccio, questa è una cosa che faceva Rosa Fumetto, non credo, o Nadia Cassini, adesso non ricordo bene, non credo che la Sdara si metta a fare, che sarebbe la moglie Lumarel, sì, il bidet con i cubetti di ghiaccio, nemmeno Lumarel. No, la Sdara già le piace sempre il caldino, quindi anche un po' la temperatura tiepida anche per i bagni. E poi vabbè, la modernità... che cosa ha creato? Ha creato questi luoghi fantastici che sono i centri commerciali, dove l'Umarel può usufruire dell'aria condizionata. Aria condizionata che però l'Umarel, il vero Umarel, dico quello proprio doc massiccio, non ha in casa, perché sarebbe una sconfitta avere l'aria condizionata in casa. Il vero Umarel non ha l'aria condizionata, ma usa l'aria condizionata dei centri commerciali. Certo, sarebbe una bella tentazione aprire un cantiere in casa per mettere un impianto ex novo, significa rompere i muri, fare le tracce, mettere gli split, sarebbe un bel divertimento comunque vedere l'installazione, che costa cara. Costa cara, cioè, l'Umarel preferisce non averlo, e poi dopo, sai, avendo in casa il climatizzatore, starebbe in casa. E poi dove va? Quando esce? E cosa fa? Allora, fermo un attimo, Danilo, solo un secondo, arrivano i primi consigli importantissimi. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa fa? Allora, io faccio una banalissima cosa che secondo me funziona anche molto. Io lo faccio, quindi l'ho sperimentato, ormai lo faccio da anni, mi fu suggerito da una mia cognata. Allora io prendo dei pezzi di lenzuolo vecchio, i vecchi lenzuoli di una volta bianchi di cotone, ma tagliare a strisce lenzuoli come gli evasi, come fa? No, io ho dei vecchi pezzi di lenzuola. Lei conserva dei pezzi di lenzuola, ecco. Li avevo, guardi, li ho ereditati da una mia zia. Questo non lo fa più nessuno. Chi è che tiene i pezzi di lenzuolo in casa? Vabbè, un pezzo di stoffa bianca, ce l'avremo tutti in casa. Su quelli che si usano per il tavolo da stiro, una volta si usavano, per non buttarli via. Sì, un pezzo di cotone, perché naturalmente di nylon forse mette male, un pezzo di tela di cotone. Cioè, perché all'interno si bucano le lenzuola, quindi usa le parti laterali. Sì. Ma io penso che anche un pezzo di stoffa qualunque, basta che sia di cotone. Vabbè, dei io pezzi di lenzuolo, anche... cominciamo dai pezzi di lenzuolo. Io li ho per tutte le mie finestre, più o meno la larghezza della tapparella, la larghezza della grandezza finestra, diciamo. Grandezza finestra. Io li bagno con acqua molto fredda, li strizzo abbastanza perché non goccioli giù l'acqua, e poi con delle mollette da stendere li attacco al fondo della tapparella. Ma la finestra aperta deve essere la finestra? La finestra aperta. Alle volte la tengo anche chiusa quando proprio fa caldo caldo e si appiccica questa stoffa bagnata, però anche aperta, specialmente se l'aria viene dall'esterno all'interno, che fa un po' muovere questo lenzuolo verso l'interno, passa l'aria, diventa un condizionatore micragnoso, cioè praticamente è perfetto, è bellissimo. Esatto, siamo anche noi la fabbrica dei buoni consigli, stupenda questa cosa. Danilo, sei felice di questo consiglio? No, sono molto contento e molto probabilmente lo prenderò di parole e lo farò anch'io. Anche perché conservare vecchie lenzuola a casa, praticamente soltanto gli umarelle tengono le lenzuola nel cassetto, chi le tiene più? Sì, i corredi anche del matrimonio. Lenzuola bianche non usa più nessuno, non tengono bene lo sporco, le lenzuola si comprano nere, rosse, tengono meglio. Maria Elisa, buongiorno. Buongiorno, anche caro amatissimo Nicoletti. Un buon consiglio ci dia. Allora, sento una cosa. Il problema grosso per tutti noi è quello della cucina, certo, a cui non ci si può sottrarre. Beh, non allora, si può, scusi, si mangia l'insalata, quando è caldo uno mangia l'insalata, non cucina. No, ma anche una pasta fa sempre piacere. O anche la classica bistecca. Vabbè, cucinare la bistecca adesso con questo caldo è da masochista. Vabbè, insomma, quello che c'è da cucinare. Allora, ma non si può fare a meno di cucinare adesso, solo per capire. Beh, io non cucino molto, però quel poco che faccio, anche il caffè, la moca classica, sì, in prima cosa accendere l'aspiratore, intanto ti tira un po' su d'aria calda, dopodiché tolto diciamo la macchina del caffè, perché il caffè è fatto, buttare, appoggiare sulla piastra bollente, rovente, sarebbe delle ore rovente, una di quelle spugnette lavasciuga. Ma poi fa il fumo, scusa. Lavasciuga, lei ci butta un po' di acqua dal frigo, cioè l'acqua minerale che hai in frigo, bella ghiacciata, per cui mi raffredda immediatamente attraverso la spugnetta la piastra. Ma scusi, poi tutta la no signora, per capire, tutta la sugna dei piatti che ci ha pulito con la spugnetta, poi li mette su e viene vapore sugnoso, è una cosa terribile. No, lei lo raffredda immediatamente, cioè mettendo la spugna sulle piastre, sulla fuoco, sulla piastra rovente, lei la raffredda immediatamente. Ma fuma però, fa fumo, fa, produce fumo, vapore acqueo. No, direi di no, perché addirittura io appoggio un coperchio, un piatto addirittura sopra la spugna dopo, cioè lo zittisco immediatamente, capito? Cioè lei diciamo stempera il fornello, questo intanto evita una fonte di calore. Il fornello con acqua ghiacciata, dopodiché però pentole, moche eccetera devono essere messe immediatamente sotto l'acqua corrente. Sempre. Perché si devono raffreddare, se no scaldano l'ambiente in metà. Il tonno dell'idea uno farebbe prima non cucinare, si compra una scatoletta di tonno e mette l'insalata. Beh, vabbè, lo può fare una volta o due, perché? Però non può andare di lungo. Il marito protesta, lei deve cucinare per suo marito. Sì, così è. Mitico Nicoletti. Confessi, questo è il fatto. Cioè, lei è un uomo che la costringe a fare la bistecca, il primo, il secondo. No, sono io che voglio assolutamente la mia pasta asciutta. Vabbè, può fare anche la pasta fredda. Ma dipende, perché per esempio uno spaghetto con la vongola. Vabbè, lei va a cercare le cose più puzzolenti e più lunghe a cuocere che esistono. Beh, ma anche la pasta al pesto. Anche la pasta al pesto. E beh, che si compra già fatto, pesto già fatto, la pasta la fa fredda. No. Ma la pasta bisogna cuocere. La cuoce la sera prima, la mette in frigo, il giorno dopo è pronta. Oddio, il pappone. Sì. No. Vabbè, io vedo che non volete rinunciare a nulla. 800 24 00 24, stiamo addentrandoci in quelli che sono gli escamotage familiari, i vecchi consigli una volta per combattere il caldo. I condizionatori ci fanno un baffo perché noi abbiamo lo straccetto bagnato e l'avanzo di lenzuolo. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi sono qui per farvi vedere come creare in casa un vostro piccolissimo ventilatore. Allora, tutto l'occorrente è un CD, della carta vetrata se volete, una macchinina, un qualche cosa da dove ricavare, un piccolo motorino, una batteria da 9V, del filo, un paio di forbici perché dobbiamo tagliare il nostro CD senza fare errori, perché succederà, un tappo di una bottiglia, della colla a caldo con le sue stecchette e poi un pennarello in delirio. Prende il CD dopo aver saldato il vostro motorino con i fili e da prendere un po' di carta. Questo sta costruendosi un ventilatore con un CD, ci mette mezza giornata. Se va alla bancarella di Bangladesh se ne prende per 3 euro quanti ne vuole e ancora per un paio d'ore funzionano magari. Mi arrivano consigli di tutti i tipi. Prendere dal frigo una di quelle mattonelle che si usano per i frigo portatili, avvolgere un pezzo di lenzuolo vecchio, portarsela a letto, dice che fa benissimo. Sì, ma chi ha lenzuoli vecchi a casa? casa. Io non ho lenzuoli vecchi, le buttiamo via le lenzuola quando si rompono, quando rimane l'indelebile sgommata, si cambia lenzuola, non si tiene in casa, tutti hanno lenzuola vecchie. Poi vediamo, chiedono, dice, si usa la temperatura, si misura col termometro, con il barometro, non capite nulla. Per Lumarel è la pressione che conta, non è tanto il calore, per lui il barometro è quello che indica se gli prenderà il coccolone per strada o se potrà uscire tranquillo. Per avere dei consigli su quelli che sono gli escamotage di una volta, che ancora sono validi soprattutto in tempo di crisi, per combattere il caldo mediatico, che è un caldo ipotetico ma in realtà a qualcuno dà fastidio, abbiamo al telefono Danilo Maso Masotti, ricordo autore tra l'altro di un'infinità di testi universitari sull'antropologia urbana dell'Umarell. Ultimo libro suo, dato, regalato alla cultura, è Anche questa è Bologna, 100 profili di bolognesi contemporanei, da là alla Sdaura. La Sdaura sarebbe la donna dell'Umarell. Danilo Maso Masotti, sarei pieno di spunti favolosi, anche perché hai sentito che l'umarellaggine è una categoria dell'umanità distribuita in tutto il territorio. Sì, ho sentito. Oggi mi hanno inviato una fotografia via mail che era un rimedio, magari non è un rimedio umarellico, ma però insomma lo possiamo suggerire, era di prendere un materasso e posizionarlo per terra davanti al frigo e al freezer spalancati. E mettere i piedi dentro il frigo, certo. Sì, questo era un metodo. Invece un metodo umarellico molto, molto sano. Ma guarda, Bruno Gambarotto oggi, sempre sulla stampa, racconta di quando lui stava con la sdraio nel terrazzino, i tempi in cui il caldo a casa era quello, non c'era condizionatore. Eh sì, no, perché poi adesso, come tutte le cose, anche il caldo, non c'è più il caldo di una volta. Eh certo, è chiaro, hai capito? Quindi è cambiato anche questo. Vabbè, comunque un rimedio super. È un caldo tropicale, si dice. Adesso la battuta è un caldo tropicale. Sembra di stare a Bangkok, cose del genere si dicono. Sì, oggi c'era un articolo che diceva temperature come a Calcutta. Cioè così, e quindi uno legge questo titolo e gli viene già più caldo. Io me lo ricordo sempre così, il caldo da quando sono nato. Però magari sono un po' rincoglionito, può essere. Sì, comunque luogo super rimane la cantina. La cantina è gli Umarells che hanno delle cantine. Si radunano lì e così possono anche continuare. La cantina rimane fresca. Cioè io mi ricordo la battitura nell'aia, nelle campagne del Perugino, cioè in confronto adesso passeggiare per Piazza Navona alle 2 di pomeriggio è una passeggiata, non c'è la pula del grano che ti entra negli occhi. Matilde, buongiorno. Buongiorno. Dunque, a parte accettare anche il caldo, accettare di sudare davanti al computer, io cerco di non aumentare la temperatura in casa cucinando fuori. Ho un fornetto piccolo dove cucino la pizza con la prolunga e ho comprato un fornellino da campeggio. Ma lei vive in città o vive in campagna? Vive in un condominio? Io vivo in campagna, ma in casa ieri avevo 32 gradi, quindi è una campagna relativa, nel senso che intorno non ho prati. Sì, ma faccio anche lei, Matilde, la stessa domanda, perché il pubblico di Radio 24 vedo che è ancorato a delle tradizioni millenarie in cui la donna da cucina per forza. Ma non fate prima non cucinare quando è tanto caldo. Si può mangiare un'infinità di cose. La verdura alla griglia, per la verdura al forno fa piacere mangiare. Ma mangia anche verdura cruda. Vabbè, ma se fa caldo. Non lo so, Ma uno comunque va al supermercato, è molto comodo. C'è del carpaccio di pesce spada buonissimo, si prende e si mangia. E sono dell'idea della signora di prima, anche una bella pasta asciutta, un bel piatto di spaghetti. Noi siamo solo in due, quindi mi posso anche permettere di cucinare sul balcone. Però cucina lei, in quattro, in sei è più complesso. Vabbè, bisogna cucinare, quindi il caldo è molto più gravoso per la massaia che cucina. Vittorio. Buongiorno. Il suo rimedio. Dunque, io ho una casa molto grande, con tutti questi scamotaggi non riuscirai mai a molto grande e molto calda, quindi se non ha condizionato. Sì. Allora, è un a questo forno. Punto dico, refrigeriamo un po' il nostro corpo. Allora io ho pensato, dico, metto un bello strofinaccio bagnato nel frigorifero. Che schifo, uno strofinaccio per pulire per terra. No, strofinaccio quello per pulire i piatti, ma è nuovo, chiaramente, non usato. E lo faccio bagnare, lo bagno, lo metto nel frigo, lo faccio freddare e ogni tanto mi faccio una passeggiatina, apro il frigorifero, mi metto questo panno in fronte e mi faccio una passeggiatina. Scusa, allora che non ci metto una maglietta e un paio di mutande, le surgele se le infila, fa prima? Magari. Fa prima. Perché? Scusi. Guarda, io mi ricordo nelle campagne umbre, che ogni tanto le cito, quando arrivò il frigorifero, che era una cosa a metà degli anni 60, la gente andava a vedere i vicini, a vedere il frigorifero, lo usavano in realtà per metterci la sera le scarpe per andare al campo il giorno dopo. E chi si svegliava per primo metteva le scarpe fresche e gli altri se le tenevano calde. Che è molto efficace questo modo di rinfrescarci la fronte, la testa. Ma io ho 18 gradi, ho il condizionatore ovunque, quindi non lo so. Ce l'avessi, sì, certo, farei anch'io la stessa cosa, sicuramente la stessa cosa. Allora, Danilo Masotti, vediamo un po' sulle possibilità di spostamento nelle città, perché è facile dire andiamo nei supermercati, ma non sempre ci sono, quindi occorre, diciamo, avere delle strategie molto più raffinate. Molti umarels utilizzano le biciclette e possibilmente fanno dei piccoli ponti in modo da sfruttare la parte della discesa e prendere un po' di freschino quando fanno la discesa. Ma perché la discesa naturalmente è più fresca? Eh sì, no, perché prima fanno la salita, un po' di sforzo, dopo in discesa la bicicletta, sai, va più veloce. Con la ventilazione. Quindi diciamo in salita si sudano, ma poi vale la pena, per quando fai la discesa è come avere un ventilatore acceso. Sì, questo è un trucco, vabbè. Poi l'autobus però ecco nelle prime ore del giorno sempre, perché dopo diventa veramente un inferno. L'umarella la macchina non la usa, la usa solamente... I cappelletti sono sempre quelli con le reclame sopra delle ferramenta, queste cose qua. Sempre quelli. Sempre quelli, non si cambia mai, però si sopravvive. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Intonti. A domani.